Professore, sono Cruciani, volevo chiarire che è successo. Guarda, no, se ti incontro, guarda, ricordo, mi porti in processo, ma guarda, ti faccio vedere, sei un mascar, non ti essere lontano perché tu sei un delinquente. Arrivederci. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Voi due, tu e Parenzo state lavorando? No, tu e Parenzo sparate minchiate, no? Non so quanto ben pagati, ma questo è un affare che non mi riguarda. E tu lo chiami lavoro questo? E comportatevi bene. Ma scusate, Capanna, che lavoro fa in realtà? Il parassita in sostanza, cioè quello mantenuto da noi, mantenuto dallo Stato, e dice a noi non so nemmeno che lavoro fate, vi pagano per quello che fate. Ma ci rendiamo conto o no, signor Capanna? No, no, momento, la gente come te negli anni 60, nel 68, basta però Capanna, ma... sarebbe stata presa a calci nel sedere, però... come conigli scappavate voi burocrati e baroni. I baroni universitari scappavano come conigli dalle finestre, scappavano quando arrivavamo in massa, sì. Università occupata, andate via, come conigli. Allora, subito per farvi incazzare, si è saputo, in realtà lo si sapeva da tempo, che gli ex deputati e gli ex senatori, caro Parenzo, usufruiscono di un privilegio tra i tanti, che è quello dei viaggi pagati. Cioè, noi paghiamo di tasca nostra, tu sarai anche d'accordo con questa follia. No, hanno Lovetto si chiama. No, Lovetto. Per cui... Lovetto io conosco che è la funivia, che è quello che si usa in montagna. Che cazzo tipo è? Quello, hanno un Lovetto che è... Un milione di euro all'anno per... Vanno sui ma si sa da sempre, si sa cosa scopre. Anche il telepass tagliamo hanno. tutto, ma perché? Ma gli ex deputati e senatori perché? Perché ex deputati e senatori devono avere il rimborso dei viaggi? Sì, un sì, milione di euro l'anno paghiamo. Per quale motivo? Cioè, gli ex conduttori, radiofonici hanno qualcosa secondo te? Cioè, quelli che hanno fatto i conduttori radiofonici hanno qualcosa? Lo Stato gli dà qualcosa? Cioè, mi rimborsano i viaggi quando decrepito, finirò di condurre questa trasmissione o finirò di stare alla radio? No, non me lo dà nessuno. Se ho i soldi, bene, altrimenti non viaggio. Cioè, anche, bisogna anche chiarire una cosa: gli ex deputati e senatori non fanno un cazzo, cioè hanno ancora l'ufficio eccetera, ma non servono a nulla, a niente, perché loro, sai che dicono? Jerry White, che sarebbe Gerardo Bianchi e compagnia bella, sai che cosa dicono? Dicono che loro servono perché hanno esperienza, servono come consulenti. Ma dai, su. Ragazzi, non mi fate incazzare con queste cose, che sono divento una belva. Anche per un solo euro speso divento una belva. Intanto la Boldrini ci fa ancora una testa così su questa vicenda delle donne. Allora, perché c'è stata la festa della donna ieri, eccetera, eccetera. Allora, al di là di quello che ha sempre detto la presidente, non la presidentessa, che se accetto il maschile accetto di essere discriminata, tutte puttanate. Però c'è l'aggiunta di una cosa: bisogna stare attenti anche ai modi di dire. Tu sai che ci sono dei modi di dire tipo fumi come un turco, sì, certo, eccetera, eccetera. Lei dice che si dovrebbe cambiare anche questo modo di dire. Senti, ad esempio, no? Lo stereotipo di, si dice, non so, i bambini dicono, ah, prendono in giro gli altri, corri come una ragazzina, come una signorina. Corri come una signorina vuol dire non sai correre, no? Oppure getti la palla come una signorina. Ecco, ci sono degli spot che fanno vedere che questi sono luoghi comuni assolutamente desueti, perché quando poi le ragazzine invece corrono benissimo e gettano la palla spesso benissimo. Meglio di... Ma io dico che veramente le persone hanno qualche tara in testa. Adesso... cioè, io non ho mai detto corri come una ragazzina, corri come una signora. Io non l'ho mai detto. Ma in che mondo vivono? Non si dicono più queste cose. Cioè, non si dicono più. Tu hai mai detto getti la palla come una signorina? Io non l'ho mai detto. No. L'hai mai detto è tu? Modo di dire cattivo. No, no, ho capito cosa intende. È una stupidaggine. No, ma basta. Ma ho capito cosa intende. Come dire giochi come una signorina. Ma perché il presidente del Senato si deve occupare di queste minchiate? Perché? Questo, perché? Questo, perché? Questo è da capire, perché. Vabbè, Berlusconi ha deciso di votare contro la riforma del Senato. So che non me ne frega niente perché domani ci sarà il voto. Lui annuncia questa cosa. La Santanchè dice che disubbidirà Berlusconi. Sentiamo queste due voci, così ci liberiamo da questa cosa qua. Io non voglio più parlare di queste cose qui. La riforma del Senato, la legge elettorale. Non ne posso più. Berlusconi. Non siamo stati noi a tradire un cammino che avrebbe davvero potuto cambiare il nostro paese. Oggi si apre questa nuova fase e si aprirà questa fase in Parlamento quando martedì prossimo, votando contro la riforma, contro il pasticcio del Senato, noi diremo no all'arroganza, alla prepotenza di un partito democratico. Santanchè. Oggi di punto in bianco votare il contrario di quello che hanno fatto i nostri senatori, votare contro, onestamente non credo, questa volta sarò disubbidiente col Presidente Berlusconi. Per l'astensione o proprio per un sì? Non vuole astenersi e voterà sì la Santanchè. La Santanchè. Sei emozionato per questa cosa, David? Moltissimo. Ti sei emozionato per questa cosa? Sei emozionato? Sì. Oggi ho scoperto anche che... eccitato. No, oggi ho scoperto, non lo sapevo, ma è una mia responsabilità, che anche i circhi prendono i soldi dallo Stato. Io non lo sapevo. Sapevo i teatri, sì, cinema, cioè, eccetera. È una vergogna pure. Il FUS, Fondo Unico dello Spettacolo. Cioè, noi paghiamo ogni anno, sembra anche tanti soldi, 5 milioni loro dicono di meno, eccetera. Paghiamo i soldi ai circhi. No, cioè, diamo soldi ai circhi. Vabbè. Lascia perdere. Diamo soldi ai circhi. Ma ai circhi, al teatro, a queste forme d'arte. Non ci posso credere, dai, non ci posso. All'operetta. Allora, intanto nel weekend c'è stata la grande diatriba tra Salvini e, tu pensi, Tosi? Tu immagini qualcun altro della Lega? No, tra Salvini e Muntari e Ballotelli soprattutto. Cioè, Salvini se l'è presa con diciamo l'extracomunitario del Milan, che gioca male. Vista calcistico, l'ho visto, credo. Sì, beh, insomma, calcistico, però dice, siccome un extracomunitario che gioca male, torni al suo paese, riferito a un giocatore del Milan, lui è tifoso del Milan. Gli ha risposto anche il signor Ballotelli, dice, se questo è un politico, posso fare politica pure io, dice Ballotelli. Non sbaglio. Capito? Risposta di Salvini, dai, di questa diatriba stupenda, dai. Oh, Ballotelli, se farà politica come gioca a pallone, lo dico da milanista, la Semper. Vabbè, abbiamo con noi però in collegamento telefonico, a proposito di Lega, una senatrice della Lega che casualmente è anche la fidanzata del sindaco di Verona Flavio Tosi. Si chiama Patrizia Bisinella. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Come andiamo? Giorni di fibrillazione. Come sta il signor Tosi intanto? Ecco, come lo diciamo, come da qua. Dal punto di vista proprio Tosi. Il suo umore qual è? Di Flavio, di Flavio, sì. Ma Flavio è sempre sereno, lui riesce a mantenere una calma serafica, sì, in ogni circostanza. Imperturbabile, sempre uguale, lo vedo sempre, non ha espressione, cambia espressioni, è sempre lo stesso, è pazzesco, o no? Ma no, in realtà le cambia ogni le tanto. Le cambia, in privato riesce le cambia. Anche a sorridere di più. No, però in realtà di fronte a questa situazione, sì, diciamo, la fronteggia veramente con molta calma e serenità, perché insomma rivendica una posizione. Certo. Lui sente essere molto giusta, io francamente condivido, la condividiamo in tanti. Beh, sarebbe clamoroso che lei non condividesse, per carità, non è che bisogna condividere tutto nelle relazioni, per carità, però insomma diciamo che in questo caso lei è sulle posizioni del suo fidanzato. Senta, Dimmi. Ma non solo per quello, perché insomma, come ha detto giustamente lei, casualmente ci siamo Galeotto fu la politica, Galeotto. Cioè, voi eravate fidanzati prima che lei entrasse in Senato, dopo. Cioè lei non è entrata in Senato in quota Tosi, diciamo. No, ma io domando, per carità di Dio. E quindi per quello che è stato proprio il frequentarci, il condividere un po' il nostro impegno politico che ci ha unito e ci ha fatto incontrare. Senatrice Bisinella, io volevo chiedere una cosa, ma quante possibilità ci sono? Adesso diciamocela tra di noi, tanto non ci ascolta nessuno. Quante possibilità ci sono? Ormai mi sembra che siamo alla settimana decisiva che Tosi e dunque anche un po' di parlamentari lasciano la Lega. Diamo un po' di percentuali. Mi sembra che ormai la possibilità di mediazione, hanno affidato a Bossi la mediazione, capisci Parenza? È come dire a Dracula, no? Esatto. O no? Lei che dice la mediazione, allora, di Bossi com'è? Tipo Dracula, che ha detto lei? Dracula, presidente dell'Avis. Esatto, no, ma fatalità proprio Umberto Bossi, che insomma è sempre stato un po' criticato e ha avuto con gli dava del fascista, dispute, gli dava del fascista. Devo dire che però lui aveva messo sul piatto una proposta di mediazione vera che poteva avere veramente un qual era? Un seguito, cioè diceva che le liste era giusto che le determinassero all'interno del Veneto e che una lista, la lista Lega Nord, fosse decisa dal Consiglio nazionale, quindi con aveva detto di sì a una lista Tosi? Aveva detto, ma sulla lista Tosi avevano lasciato aperta un'ipotesi. Lui aveva detto, cioè lei mi sta dicendo che Bossi è più più malleabile di Salvini? Secondo me Bossi ha tentato, rendendosi conto un po' che la forzatura era eccessivamente spinta, ha tentato, operando con buon senso, ha tentato di trovare una soluzione. Che lo dica lui a me non sorprende, perché lo conosco e lo conoscevo quando stava bene. Bossi era un vero stratega politico, cioè, aveva, diciamo la verità, una visione tra Bossi e Salvini. Lei preferisce Bossi? Preferiva? No, non è questo. Beh, come no, è come tutto un altro mondo. È tutto un altro mondo, però diciamo più rispettava di più l'autonomia del Veneto Bossi. Questo sì, ha detto bene. Bene, Bossi è sempre stato molto rispettoso delle autonomie dei territori. Vabbè, si stava meglio quando si stava peggio, dai, su, La regola era vera, quella del rispetto delle autonomie e dell'indipendenza dei territori, tanto soprattutto che era lui che aveva voluto tutta, che la Lega perché? Diventasse una confederazione. Sì, ma diciamola tutta veramente, perché Maroni può avere la sua listina civica, le sue robe, cioè, e Tosi no? Perché? Questo è l'altro punto. Però scusi, senatrice Cinella, perché Maroni sì e Tosi no? Me la dica tutta. Secondo voi Salvini vi vuole sottomettere? C'è una prova di forza ormai, dai, diciamo secondo la verità. Secondo me in atto c'è stata evidentemente sì una prova di forza. Vi vuole sottomettere, voi del Veneto vi vuole sottomettere? Diciamo che lui, per sbrogliare la matassa del Veneto, ha ha dato forse ascolto troppo a certe persone che hanno fomentato e hanno messo zizzania nei rapporti. Vabbè, ma adesso questo che super parte, c'è ragioni più personali, guardi, che francamente c'è stata una presa di posizione eccessiva in Consiglio federale, quasi punitiva, questo lo cioè vogliono punire Flavio Tosi, questo è il punto secondo me, cioè Salvini vuole punire c'è Tosi stata una, ma no, non è diciamo che Salvini, mal consigliato probabilmente, ha preferito, anziché richiamare all'ordine anche tanti altri perché collaborassero, e mi riferisco, lo dico chiaramente, anche al governatore del Veneto, la cui candidatura non era stata mai messa in discussione da nessuno, ha preferito? Perché dire a lui, siediti ad un tavolo e condividi liste, posizioni, alleanze. Ma insomma, quante percentuali ci sono secondo lei? Perché è stato lui, diciamo, finora a evitare il confronto, ha preferito fare una reprimenda nei confronti del segretario politico della Liga e del Consiglio nazionale della Liga. Io voglio capire una cosa, quante possibilità ci sono mi dica, la vedo difficile per una questione, perché è stata proprio assunta una linea, quella del federale, eccessivamente dura. 10% che resti nella Lega? Tosi? Quindi io mi auguro che prevalga il buon senso. Vabbè, ma quello nel mio picco. Diciamo, ma se voglio dire che se verrà espulso, lui si candiderà alla presidenza della Regione Veneto? Allora, come lui, tutti quanti noi stiamo aspettando di capire. Ma mettiamo che venga espulso, mettiamo che venga espulso, che succede? Ma lui sarà espulso, se davvero arriveranno a quello dovranno spiegare davvero. Vabbè, quello d'accordo, mettiamo che viene espulso, la responsabilità. Mettiamo che viene espulso, si candida. È un uomo libero, a quel punto certamente prenderà delle decisioni a mente lucida, non l'ha ancora presa una decisione. Se non è più nella Lega Nord e ci tiene a portare avanti un progetto politico, perché ha tutta la sua vita l'impegno politico, così come mia, come la nostra, certamente allora cercheremo di fare la nostra parte a favore dei nostri concittadini. Ottima trasmissione, sempre la migliore. Caro del David. Abbiamo con noi la fidanzata del sindaco di Verona, Flavio Tosi, nonché senatrice della Lega Nord. Non so cosa venga per prima, essere fidanzata o essere senatrice, però glielo chiedo subito. È una domanda un po' stupida, ma che ha una sua ragion d'essere, cara senatrice Bisinella. Sì. Che è questa: lei alla fine resterà più fedele alla Lega o a Tosi? Cioè, se sarà il caso di scegliere, come probabilmente sarà, lei resterà più fedele a Tosi? Allora, precisazione veloce: sono innanzitutto impegnata in politica da sempre. Vabbè, che lo abbiamo detto. In casa Lega mi sono sempre trovata bene, perciò quella con Flavio Tosi, una battaglia di giustizia, di correttezza, di applicazione. Lei ha parlato di fatto, ha diritto di fatto a di Salvini. Allora le spiego, se io ho sempre lavorato col massimo dell'impegno in Lega e continuerai volentieri a farlo. Però, se non vado più bene, per esempio, mi devono dire perché. Come mai il mio impegno, che fino a ieri andava bene? Ma lei è iscritta alla famosa fondazione del suo fidanzato, è iscritta pure lei? Per esempio, io ho aderito alla fondazione l'anno scorso, quest'anno ancora non ho avuto occasione di seguire altri eventi, mi dovrebbero dire... Perché l'anno scorso andava bene? Per esempio, non ho la tessera, esatto. E per quale motivo, ad esempio, io dovrei essere espulsa o sottoposta a un provvedimento disciplinare? Quando ho aderito a quel progetto, che è partito quasi 2 anni fa, avallato dall'allora segretario federale Maroni, e come me molti militanti hanno fatto un legittimo affidamento che andasse bene. Vabbè, comunque alla fine quindi, se si arriverà alla rottura, quindi, lei sarà più fedele a Tosi che alla Lega, diciamo la verità. Ma è perché vorrebbe dire che per loro non vado più bene in Lega, io ci starei bene continuamente e vorrei continuare a lavorare, impegnarmi per la mia gente, per la mia terra, come continuo a fare. Ma mi dovrebbero dire loro e motivarmi. E loro dicono: se lei è iscritta o frequenta la fondazione, eccetera, è incompatibile allora, con la Lega. A quel punto, siccome diventa una battaglia di giustizia, di un principio, di un ideale, anche di coerenza, allora a quel punto seguirò Flavio Tosi, non solo perché ne condivido la vita, diciamo, ma proprio in quanto un progetto politico. Per me diventa fondamentale essere coerente. Sì, ma lei si vede bene più, si vede meglio con Passera e Alfano piuttosto che con Tosi. Allora, Passera e Alfano sono tutte queste ricostruzioni giornalistiche. Vabbè. Passera non è neanche presente con liste in Veneto e addirittura ha dichiarato lui per... Ma scusi, ma Salvini, secondo lei... Non nessuna regionale perché... Ho capito, ma Salvini, secondo lei, ha un po' perso la testa, si è montato un po' la testa? O no? Non lo so, se è, forse è preso da tante cose, questo lo capisco. No, ma si è montato la testa, cioè si è mal consigliato. Vabbè, si dice sempre mal consigliato, ma si è montato da qualcuno che ha izzato molto. Ma non penso che si fa consigliare uno che prende le sue decisioni in autonomia, adesso, diciamo. Secondo me Salvini ha dato più peso a una certa parte, quella sì che spera di far fuori un rivale interno politico. Allora, se ha fatto queste scelte che sono personali e non... Cioè lui spera di far fuori un rivale interno. Lui ha seguito il consiglio di chi di far fuori il nemico politico. Non credo che sia, francamente, per come li conosco, per come so essere, il rapporto tra loro, che sia un problema tra... Ma a caso, ha fatto gli auguri per i 42 anni a Salvini? Ecco, o no? Sì, infatti, auguri, sì, è più giovane di me, tra l'altro. Ma glieli ha fatti gli auguri? No, non li ho fatti perché non ho il suo numero. Ma a casa com'è Flavio? È un po' nervosetto, nervoso. No, Flavio... A casa è nervoso. Dorme bene? Dorme bene? No, quello è che sta male anche lui di questa situazione, chiaramente. Cioè sta male? Ha qualcosa anche di fisico? Di fisico? No, di fisico. Che ne so, mal di testa, vomito, no, ma mica dico male cose gravi, No, per fortuna regge bene. No. Senta, ma secondo lei ci possono essere dei dossier contro Tosi in questi giorni che vengono messi fuori? Ha paura un po' di questo? No, che ne so, la famosa macchina del fango, in questi casi quando c'è la battaglia politica. No, beh, guardi, se si arriva a questi livelli, per carità, non c'è più da meravigliarsi di nulla. Già hanno provato in passato contro Tosi a fare di più. Mi sembra che il rapporto tra lei e Tosi sia più forte del rapporto tra lei e la Lega, mi sembra di capire. Guardi, o no? Sa cos'è? È una condivisione totale. È più forte del rapporto con la Lega, vero o no? Sì, vero. No, sì, è proprio il fatto che coincidono le cose. Vabbè. No, la devo lasciare. Ho conosciuto Tosi grazie al progetto politico. Va bene, arrivederci, grazie. Grazie a lei. Stavo ascoltando Radio Capital adesso, Zuccone è molto più divertente. Televisione, sono andata a scrivere per vedere voi due come siete, bruttini, veramente. Luca, il sindaco di Salerno, combatte come un leone, eh? Non molla, non molla, anche perché ha vinto le primarie del Partito Democratico, sarà candidato, se ne sbatte assolutamente della legge Severino, dice non gli fa né caldo né freddo perché tanto dopo c'è il TAR che lo rimette sopra. Ora voi immaginate, se l'avesse detto qualcuno del centrodestra, certo, qualcuno legato a Berlusconi, sarebbe successo un casino. Lo dice, certo, De Luca, che a me sta simpaticissimo, è numero uno dal punto di vista comunicativo, anche dal punto di vista forse dell'amministrazione, eccetera eccetera. Lo dice il signor De Luca e tutti zitti. Beh, tutti, proprio tutti. Me non fa né caldo né freddo, la Severino può stare dove sta. Perché per quanto riguarda la Severino, quando interviene la Severino, un minuto dopo interviene il Tribunale Amministrativo che, come si è visto a Napoli, a Salerno, dovunque, reinsedia nei poteri gli eletti. Luca che dice che Saviano non si deve innamorare della sua immagine. Come sapete, Saviano ha preso posizione contro il RAS di Salerno, il sindaco di Salerno. Allora vediamo di capirci bene, io ho molto rispetto per Saviano. Ha molto rispetto, sicuro? Sì, sì, bah, è uno dei testimoni civili di questo paese, ma Saviano deve fare attenzione a un pericolo che è quello di innamorarsi della propria immagine. Questo è un pericolo serio e deve fare attenzione. Intanto Paolo Berlusconi, il signor Paolo Berlusconi, sai chi è Paolo Berlusconi? Il fratello di Silvio, naturalmente lo sai, editore formale, diciamo, del giornale che appartiene alla famiglia Berlusconi, in cui Paolo Berlusconi decide poche cose rispetto a quello che decide il signor Silvio, la signora Santanchè che guida la pubblicità, eccetera eccetera, vabbè, ma comunque e siamo Sallusti evidentemente, dice che Berlusconi non si deve mai ritirare, deve morire combattendo, deve morire combattendo. Un po' di riposo ogni tanto. Mi piacerebbe che si godesse questi anni in serenità, ritirarsi mai, perché lui è un combattente e deve morire combattendo. Deve morire combattendo. Ma spettacolare. Allora, scontro incredibile tra il tuo amico Fiano, Partito Democratico, sì, e il capo, uno dei capi di Casa Pound, che si chiama Di Stefano, sì, Di Stefano, come... alla gabbia. Io dico una cosa, come Fiano sa quali sono gli ospiti, no? Cioè, dice, non parlo con i fascisti, ma allora che ci vai a fare se non parli, giusto, con i fascisti? Ma lì non parla con i fascisti. Ma che vuol dire? Vai lì. Benissimo, sai, scelta ottima, ma vai, non, lì, vai lì, perché vai lì, perché dici le tue cose, ma non si parla con i fascisti. Ottimo, giusto, eh? Piano di Stefano. Sì, io mi sono messo due foulard per ricordare due cose. Io non sono abituato a parlare con i fascisti, ma voglio ricordare. Allora vattene a casa. Dovresti mandarmici con la forza fisica a casa. Dai, basta. Questo è il fazzoletto dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Posso dare ragione in questo caso al signor Di Stefano? Non molto parla con i fascisti? Beh, no. Ma no, a me io non manco, lo conosco. Andare Di là, andare lì e non parlare, questo è. Ma che è vuol vero dire andare lì e non parlare? Perché, vai lì, perché, è ospite un tizio che rappresenta un movimento politico. E io gli dico in faccia che con i fascisti non parlo. Vabbè, ottimo, comunque, con la sciarpa. Sentiamo con ancora questo scontro. Sentiamo ancora questo, ottimo, scontro formidabile. Ottimo, Fiano. Ottimo. Quanti anni fa è successo? Questo è il fazzoletto di mio padre. Quanti anni fa è successo? Nel campo di... Stai zitto quando parlo di mio padre, vergognati. Superstite del campo di sterminio di Birkenau. Per me i fascisti sono quelli che a quell'epoca consegnarono gli ebrei italiani e tutti gli altri antifascisti e nazisti. Di Stefano, c'è una cosa. Chi oggi, come il capo di Di Stefano, Iannone, ha dichiarato che loro sono i fascisti del terzo millennio, con me non avrà mai dialogo. Però... bisogna sempre parlare, io lo dico a Di Stefano, dico a Fiano, no, bisogna parlare sempre. Ma chi l'ha detto? Senti, una volta tu, davanti ai fascisti che venivano in questa trasmissione, ce ne sono, sì, venuti tanti, parlavi e ridevi e scherzavi. Adesso improvvisamente sei diventato duro. No, pure no, tu. Io dico che dai, io, su, a differenza di Fiano, uso un'altra tecnica, cioè provo a distruggere le loro posizioni con l'ironia. Questo vabbè, è comunque una... sentiamo ancora però Fiano. Però rispetto quel che sentiamo dice ancora Fiano, Fiano, sentiamo ancora Fiano. Anche fare anche un il saluto romano e portare la foto di Mussolini anche come avete fascista fatto in Piazza del Popolo. È un fascista, è un fascista, reato, è un reato, sì o no? È un problema vostro essere orgogliosi della storia lei fascista di questo oggi paese. Un fascista. I fascisti hanno consegnato, torturato, ucciso. Sono passati 70 anni per voi. Sono passati 70 io non dimentico anni, neanche i miei figli e i miei nipoti. Non bastano 70 finita anni per dimenticare chi ha voluto la dittatura in questo paese. Non ma sono bastano passati 70 dichiarati, anni. Dichiarati non fascista, dichiarati antifascista e dialogheremo. Io ma con i fascisti non parlo. now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. Gruppo duro con la Grecia, basta perdere tempo, più riforme o niente aiuti. Merkel, c'è ancora molto da fare. Atene, mercoledì riprendiamo il negoziato. Via alla cura anticrisi di Draghi, la BCE acquista titoli tedeschi, italiani, francesi e belgi, miliardi per la ripresa, 150 arriveranno in Italia. Domani il voto sulle riforme, opposizioni in aula per esprimere il dissenso, fuori solo i 5 Stelle, Boschi occasione persa, noi avanti lo stesso. Mattarella e giovani magistrati, valutare bene gli effetti della responsabilità civile, ma non fatevi condizionare, massimo impegno contro la corruzione. La trascrizione delle nozze gay può essere annullata solo dal Tribunale Civile, non dai prefetti, così il TAR del Lazio dopo i ricorsi per le cancellazioni. Mai stato nel covo PR per confessare Moro, dice Monsignor Menini alla commissione d'inchiesta. Paolo VI aveva preparato 10 miliardi per il riscatto. Altri arresti in Cecenia per l'omicidio di Boris Nemtsov, ma l'opposizione resta scettica sulla pista islamica e chiede di fare luce sui mandanti. Allora andiamo con Roberto da Cuneo, vai Roberto. Buonasera. Dimmi caro, dimmi. Niente, io volevo così dialogare ipoteticamente col compagno Capanna, il quale compagno Capanna dice che sono stati lesi sui diritti acquisiti perché nel caso in cui venisse tolti i vitalizi. Ora mi chiedo, grazie alla riforma la riforma delle pensioni mi sono beccato 4 anni in più, quindi andrò in pensione con 44 anni di contributi in pensione anticipata. Allora, ma se i miei, cioè, se noi non possiamo toccare i suoi diritti acquisiti, perché i miei sì? Ma infatti lei ha ragione, secondo me si possono toccare tutti i diritti acquisiti. Esattamente, esattamente. E poi la Solo che poi in Italia, come abbiamo sentito, ci sono i TAR, i consigli di Stato, i ricorsi, eccetera, eccetera. È un paese fatto così, dove si può fare ricorso per qualsiasi cosa. Adesso i prefetti hanno annullato le nozze gay e subentra una decisione, non so di chi, che sostiene che devono essere i tribunali, il TAR ha detto che sono i tribunali, ma è un paese così. Dove è possibile, ma io non entro nel merito. Io sono favorevole alle nozze gay. Il punto è che poi arriva il TAR che decide che è il tribunale che deve, cioè è una cosa pazzesca. È un tutto si ingarbuglia. I TAR, i consigli di Stato, è così. È l'Italia. Mi chiedo anche una cosa: ma la signora Camusso, un'altra paladina dei diritti acquisiti, dove cazzo è? Cioè, no, che c'entra la Camusso? Ma la Camusso si è opposta alla Fornero. Devo dire la verità, cioè, da questo punto di vista, si è opposta alla Fornero, però non l'ho mai sentita a dire una parola in opposizione a tutti questi cazzoni che lavorano un giorno. Cioè lei dovrebbe prendere, dice la Camusso dovrebbe prendere posizione contro i vitalizi ai parlamentari, sì, o i vitalizi ai condannati. Ma scusi, vabbè. Questo denaro viene sottratto, sono risorse che vengono sottratte ai meno abbienti, a chi ne ha bisogno. Ma figuriamoci se la Camusso della CGIL si batte contro i vitalizi ai parlamentari, non credo, però può essere. Grazie Giuseppe, provincia di, grazie Roberto. Giuseppe, provincia di Chieti, vai. Buonasera Cruciani. Dimmi caro, dimmi. Dunque, questa sera quando hai iniziato, per far girare i coglioni a certe persone c'è fatto apposta. Hai iniziato, sono indignato. Ma che indignato, sono indignato, sono scandalizzato che Stato paga i circhi. Io ho detto semplicemente che non sapevo che noi dessimo dei soldi, cioè noi, anche lei, dà dei soldi, circhi, ai circhi, oltre che al teatro, al cinema, diamo i soldi anche all'attività dei circhi, capito? Perfetto. E anche diversi soldi all'anno, credo 2 milioni di euro all'anno circa. Perfetto. Perché non si indigna? Perfetto. 24 ore del gruppo che dai soldi, ho già capito, dai soldi a noi per fare i clown, dici tu. Certamente, la differenza vera, caro Giuseppe, la vice di Chieti, è che ne dica qualcuno che prendiamo anche dei soldi questo pubblici indirettamente. Privato, amico mio, è un circo privato, per cui non chiediamo soldi allo Stato per mantenere in piedi questa baracca e questo circo equestre. In cui lei ne è uno dei protagonisti, peraltro. Esatto, caro Giuseppe, il signor da Chieti qui. Esatto, lei è uno dei protagonisti principale, capito? Beppe da Chieti. Cruciani. Dimmi, caro, dimmi. Decaduto, anzi. Come si dice da queste parti? Dimmi caro, dimmi. Si dice l'uovo, dice cornuto all'asino, no? Io lo dico in italiano, dimmelo, no? Dimmelo in italiano. Dice cornuto all'asino. Vabbè. Cioè, lei quando inizia, diciamo, un discorso, c'è cioè una questione, lo devi dire... Cioè, vabbè Giuseppe, ho capito, dici sempre le stesse cose tanto. Marco da Milano, vai, che non è Marco da Milano, quello dell'Espresso. Fra poco abbiamo un grande ospite, Parenzo. Marco da Milano, Marco. Molto bene. Marco. Allora, ascolti, io venerdì ho visto ho seguito Radio 24, ho parlato degli stipendi che i vitalizi che prendevano parlamentari, chi 200, chi 300, chi 600. Ma io dico, ma questa 600 che, qua, scusa, 600 che? No, 600.000 euro, 600 euro no di sicuro, 600.000 no, euro a che? 600.000 euro all'anno non li piglia nessuno. No, no, Azeglio Ciampi prendeva 600. No, ma quello sono i redditi, amico mio, i redditi dei parlamentari, vabbè, è diverso. Quello che sia, ma non è uguale i redditi o i vitalizi, allora, vitalizi siamo... è... Ma lascia, vabbè, ma vitalizzo, reddito, quello che sia. Vabbè, ho capito, uno non può guadagnare, non può guadagnare. No, non li può guadagnare perché no, non li può guadagnare perché sono soldi nostri. Ma è stato la Banca d'Italia. Il vitalizio è una cosa, il reddito è un'altra. Vabbè, sono due cose diverse. Vabbè, comunque pigliano dei vitalizi assurdi. C'è gente che quello non c'è vitalizi. Dubbio. Allora? Allora? Io dico, ma queste persone non gli viene voglia di sputarsi in faccia quando fanno delle leggi su persone che hanno invalidità, ma invalidi veri, che sono invalidi al 100%. Beh, sullo sputarsi in faccia non c'è... No, no, io mi sputerei in faccia, perché... Cioè, quando fanno delle leggi, le dice discriminanti nei confronti di qualcuno, tolgono soldi dagli settori dello Stato. Sì, bravo, è bravo. No, non siete seri per niente. Caro Parenzo, tu sei a Roma e qui abbiamo come ospite una persona, tu non lo sai, anzi no, diciamo, smettiamolo di fare questa muina come diceva prima un nostro amico, come diceva una volta il nostro amico Pomicino, no, lo sai, te l'ho detto oggi, certo. Un ex ministro che ha scritto un libro, si chiama Anna Maria Cancelliere, chi non la conosce, buonasera, buonasera, buonasera, buonasera. Ha scritto benvenuta un libro. Benvenuta anche da Roma, mi dispiace non essere lì. Vabbè, con voi a fare di sboccia. Noi non ce ne frega niente in realtà, cioè, tu non sei qua, comunque. Siccome adesso l'ex ministro ha la tosse, non dici niente al ministro? No, che non bisogna, no, perché, non no, bisogna deve sapere, tossire il microfono. Cara cancelliere, deve sapere che quando, ogni volta che io tossisco, lo sfruttatore che è con lei a Milano, ogni volta dice: ma non, in radio non si può tossire. Adesso non gli dici niente. Ma quando gli ospiti tossiscono, che gli devo dire di non tossire? Che ne sanno che non bisogna tossire? A il me microfono. Mi riprendi sempre. Comunque, capisco. Ha scritto questo libro, Una vita bellissima per Mondadori, che riassume in poche pagine, perché non sono tantissime, ma i libri, quando si è meglio scrivere libri corti che libri lunghi. Tutta la sua vita da prefetto, poi ministro, eccetera, certo. Eccetera. Cara cancelliere, le faccio ascoltare subito, tanto per metterla subito a suo agio, quello che ha detto Renzi quando voleva le sue dimissioni per la nota vicenda Ligresti. E adesso ascoltiamo un breve mix delle parole di Renzi. Il punto vero è che c'è un ministro, il ministro della giustizia, che anche secondo me si deve dimettere. Oggi il ministro Cancellieri ha perduto quel prestigio e quell'autorevolezza che le rimangono dal punto di vista personale, ma che per la funzione che deve svolgere non ha più. Penso che lei abbia dato scritto una brutta pagina in cui si è dato l'idea che la legge non è uguale per tutti. Se il ministro Cancellieri avesse capito che questo era il momento di dare un segnale e di fare un passo indietro, sarebbe stato meglio. Allora, ormai quello che è stato, lei non si dimise da ministro della giustizia, poi ha fatto il ministro degli interni prima, vabbè. Il punto non è quello, a noi non interessa la ricostruzione storica, stanno avvenendo delle cose di attualità però. Cioè, Renzi chiese le sue dimissioni all'epoca, mentre oggi non chiede le dimissioni per un signore che fa il sindaco di Salerno, del Partito Democratico, che è stato condannato in primo grado. Come la trova lei? Non la trova una contraddizione spaventosa? Beh sì, però sono le cose della politica, che hanno delle logiche che sfuggono alle mie, che naturalmente sono logiche normali, però hanno delle logiche politiche. Cioè la politica, lei dice, è fatta anche di contraddizioni, certo. Di dire una cosa, certo. E poi farne un'altra. Sicuramente. Cioè non la stupisce che Renzi, che voleva fortissimamente le sue dimissioni all'epoca, lei non è stata mai indagata per quella vicenda, magari era politicamente, adesso dopo glielo chiederò, inopportuna, ma non è questo il punto. Però non chiese mai le dimissioni, e invece chiese le dimissioni, adesso non chiede le dimissioni di De Luca. Probabilmente sicuramente erano momenti storici diversi, la politica aveva delle aspettative. Cioè ce l'aveva con Letta, dice lei. Ma non lo so, ecco, questo dovete chiederlo a lui, però era comunque un momento diverso da quello di adesso. Beh, su questo non c'è dubbio. Ma senta, ma lei che ha contribuito in parte a scrivere pure la legge Severino, di cui si parla, sicuramente qualche contributo l'ha dato, no? No, certo, la parte che riguarda gli enti locali è tutta il Ministero dell'Interno. Oggi si parla molto del fatto, De Luca stesso lo dice, che bisogna cambiare la Severino, probabilmente per permettere a quelli che sono stati condannati in primo grado per certi reati di potersi, diciamo, di poter rimanere al loro posto. Secondo lei va cambiata questa legge? Ma guardi, è una legge che noi abbiamo fatto con molta passione, credendoci veramente, anche perché il paese ci chiedeva con forza, votata da tutti tra l'altro, dagli stessi partiti che poi adesso dicono di popolo, esatto, perché era una legge che il paese voleva, soprattutto il paese aveva forte questa esigenza . E il Ministero dell'Interno ha fatto proprio il settore che riguarda gli enti locali, quindi i sindaci, l'amministratore. Ma va cambiato o no secondo lei? Ma e sono sempre anche qui questioni di sensibilità politica. Io credo che sia importante che i cittadini credano nei loro amministratori. Cioè, per cui un condannato in primo grado come De Luca, secondo lei non dovrebbe presentarsi lì c'è da fare una domanda, domandarsi il falso, non il falso, il reato in sé. Noi abbiamo ritenuto e riteniamo che sia un reato importante. L'abuso d'ufficio. L'abuso d'ufficio. E per cui fosse per lei, tanto lei ormai è fuori, diciamolo tu. Diciamolo io la manterrei subito. Perché quando l'ho fatta ci ho creduto. Però sono le cose che nascono poi dal sentimento popolare. Se il sentimento popolare ravvisa che l'abuso d'ufficio... Ah, dice, signori, se pensa che l'abuso d'ufficio sia una cosetta... Esatto, però io ritengo superato. Che sia una cosa non superata. Non superate, certo. Dunque bisogna mantenere questa cosa per cui gli amministratori... Poi però ci sono tutte le altre storie, perché poi... C'è la politica, la contraddizione. Ma lei ha visto anche il TAR, quindi a quel punto... Che rimette, che è un'altra follia, se e questo vogliamo, è un paese che forse dovrebbe darsi qualche regola un po' più... Sui più TAR, forte. Soprattutto. Ma lei da prefetto, ad esempio, le avrebbe abolite quelle le nozze gay se si fosse trovata... Questa è un'altra situazione. Cosa, che c'entra le nozze gay adesso? Ma così. Guardi, le nozze gay... L'ho collegato a volo d'uccello, io credo che ci sia un discorso... che va affrontata in maniera molto, molto serena. E secondo me nozze, non nozze, ci sono dei problemi che possono essere problemi legati ai patrimoni delle persone, a degli aspetti economici che vanno comunque salvaguardati. E poi il matrimonio io credo nel matrimonio. È quello uomo e donna. Sì, però potrebbe esserci un'unione di tipo civile che garantisca comunque gli interessi alcuni economici. Diritti. Ecco, però si è parlato molto del fatto, lei ha fatto il prefetto per tanti anni, e del fatto che i prefetti hanno per esempio cancellato l'iscrizione. Perché c'era la legge, i prefetti non... Poi oggi addirittura si è stata deciso un'altra cosa, che il TAR ha deciso che è sbagliato che i prefetti intervengano. Non dovevano farlo i prefetti, deve essere il tribunale. Ma lei l'avrebbe cancellata la cosa? Il prefetto segue la legge, i colleghi che l'hanno fatto in ossequio ad una legge, ad una direttiva, ad dei circolari, cioè non hanno fatto nessun tipo di abuso, diciamo. Senta, ma perché Renzi, adesso io torno sulla cosa di Renzi, ma lei oggi lo voterebbe? Ma guardi, vediamo adesso, io credo che sia importante all'ultima elezione che ha votato lei, si può dire? Questo non si può dire, preferirei evitarlo, sì. Vabbè, ma non è, ormai lei è fuori dalla politica, vabbè, è fuori non da tutto. C'entra. Comunque il voto è un fatto strettamente segreto. Io credo che votare una persona piuttosto che un'altra, bisogna vedere nel momento storico in cui arrivano le elezioni e poi quali sono le proposte di chi escluderei Salvini, però appunto, credo che Salvini non lo voterebbe. Posso dirlo con ragionevole certezza, se la conosco abbastanza, diciamo. Beh, Salvini è si un può po' escludere. Complesso sotto certi aspetti, su altri però devo dire che riesce anche qui a raccogliere delle stanze popolari, perché io non ce la vedo se la cancelleri con le magliette no, come Salvini, no, sicuramente no, no, no, chiedo, no, chiedo. No. Poi è romana, romanista, mi vesto di verde perché il verde è un colore che mi piace, cioè questo non c'è, però niente. L'unica cosa in comune con Salvini forse è quello, il colore dei vestiti. Io credo che Salvini raccolga anche delle istanze popolari importanti e non va sottovalutato, perché cioè, come pericolo dice lei, non va sottovalutata la voce del popolo, guardi. Qualunque essa sia, al popolo bisogna spiegare le cose, bisogna comunque ascoltarli. Anche la sua voce non va sottovalutata. No, la mia voce. Ma quanti problemi ha sempre avuto nella sua vita? Ma guardi, con questa voce? Da ragazzina abbiamo cominciato con la mia voce, è stato sempre una cosa che mi sono portata dietro, però devo dire che l'ho fatto sempre con allegria. Cosa le dicevano quando era ragazzina? Le dico, quando era in classe maschio. Dicevano che erano dicevano che era una pentola di fagioli che bolle. Una pentola di fagioli che bolle. Sì, io parlavo e la mia maestra, che era una persona deliziosa, mi diceva: Cancellieri, sembra una pentola di fagioli che bolle. Ma io però ho continuato a far bollire la pentola e chiacchierare. Ma per telefono non l'hanno mai scambiata per un sempre, maschio? Sempre per un uomo. Diciamo che 9 volte su 10 io spiego, no, guardi, sa veramente, non le dico l'imbarazzo dall'altra parte. Sono tutti morti, allora gli dico, no, ma non se la prenda, sa, capita, e lo consolo. Lei lo sa che noi abbiamo fatto uno scherzo formidabile al capogruppo, lei lo sa sicuramente, all'epoca capogruppo del Senato del Partito Democratico Zanda, come no, all'apice della vicenda bene. Di Cresti. Devo dire che fu molto gentile Zanda, lo apprezzai molto. Con lei fu gentilissimo, diciamo, con noi non credo che... Io apprezzai molto l'equilibrio con cui rispose. Sento una cosa, ma tornando sulla vicenda degli Gressi, lei non si rimprovera nulla, abbiamo detto che è stata scagionata, rimprovera qualcosa o no? C'è un po' di inopportunità di chiamare in una famiglia che era coinvolta in vicende giudiziarie? Quello sì, forse se ci avessi riflettuto di più... Non avrebbe chiamato. Io ho dato ascolto ai sentimenti perché sapevo che non facevo nulla di male, perché era una donna che in quel momento perdeva tutto e che non era lei la responsabile di nulla, e quindi secondo me, essendo la responsabilità penale assolutamente personale, però forse riflettendoci, soprattutto perché quello che a me dispiace è che la gente possa aver capito qualcosa che lei voleva favorire una, un VIP rispetto ad altre persone. Io sono tutto meno che quello, per cui riflettendoci lei dice non avrebbe più fatto. Mi dispiace che abbiano potuto non capirmi, questa è, è l'unica cosa di cui mi e dunque mi... vuoi dire col senno di poi la telefonata fu un errore. Allora, fu un errore. L'ho anche riconosciuto peraltro. L'ho anche riconosciuto. Senta, invece dai Ligresti è rimasta delusa per quello che è uscito fuori dalle loro vicende giudiziarie? Lei è stata amica della famiglia tanti anni, adesso siamo qui a ripetere. Certo, non sono vicende belle, però io credo che anche qui la storia vada scritta tutta, aspettiamo gli eventi, i fatti. Io preferisco, cioè, le sentenze non dare definitive, giudizio, dice preferisco lei, non dare giudizi. Comunque certo ci si rimane male. C'è rimasta male, cioè ha rotto delle amicizie per questo? Ma io non sente più rapporti. Non ha più rapporti. Non ho proprio più, beh, però era legata, insomma. Non... Ma io sono molto legato ad Antonino Ligresti, quello che ho cercato però non ha più di spiegare. A partire con da quella Antonino vicenda Ligresti, lì... siamo amici da 40 anni e continuiamo ad essere amici. Un'amicizia. Però le dice con la famiglia, la, con il resto della famiglia, sentiti, non l'ha più sentita. Pungete. Allora, abbiamo con noi alla Zanzara una persona che abbiamo imitato, abbiamo provato a imitare più volte, ha scritto un libro, non è più ministro. Ed è, come? No, mi perdoni, chiedo scusa Cruciani, innanzitutto buonasera. Buonasera, però buonasera. Mi permetta di esprimere un po' di ringraziamento, perché credevo mi avesse invitato per presentare il mio libro. Noto invece, con raccapriccio che in studio c'è un cabarettista, un imitatore, e peraltro mi ha pure offesa perché ha detto che sono una pentola di fagioli che bolle. Insomma, la trovo veramente una trovata scandalosa, inaccettabile e vergognosa. Scusi, signora Cancellieri, lei ha ancora quel ristorante che ha aperto dopo essere stata ministro? Perché ci mancherebbe, perché di fagioli. Lei non lo sa, Cruciani, ma gliel'ho ripetuto tante volte. Sì. La gatta buia, io questo libro, Una vita bellissima. È un libro di cucina. Come di cucina? È autobiografico, parzialmente, dove propongo una serie di piatti tipici della galera. Ma no, piatti tipici della galera, no. Galera, perché lei lo sa benissimo, l'esperienza dello svuotacarcere mi ha segnato profondamente come ministro. Ma che c'entra la cucina? Scusi, signora Cancellieri, che c'entra? No, adesso glielo spiego, se mi lascia parlare. Sì, dovrebbe essere un po' più sintetica, però. Sintetica, ma io cerco di sintetizzare, ma lei mi interrompe sempre. Vabbè, sì, ha ragione, vada pure, dica. Ecco, quindi lei pensi che questi disgraziati della carcere dormono in letti a castello, addirittura in sesta fila, un po' come Patrese ai bei tempi, non so se si ricorda. Patrese, quindi, adesso lei si ricorda di Patrese, non è che è appassionato di sport. Nei miei tempi, poi io sono tifoso romanista, lo sa. Comunque, lo sappiamo. Questo è Andromercù. Allora, signora Cancellieri, salve signora Cancellieri. Comunque, molto bravo l'imitatore. Allora, però io vorrei, lei da giudice massimo, quale può essere solo il protagonista, da giudice massimo, decidesse qual è, senza nessuno sconto, non perché lui è Andromercù, lavora per la Zanzara, il suo imitatore, dice qual è il suo migliore imitatore. Allora, ha sentito adesso Andromercù, adesso andiamo con Fiorello, vai con Fiorello. Se un domani vi dovessero ingabbiare e vi dovessero dare un permesso premio, per favore non scappate. Se non vengono da me, allora è male. Su, faccio l'appello a quelli che sono scappati. Riconsegnatevi, brutti mi dava mignotta. Che se no se la piano con me. Beh, Meglio Mercù. Cioè, Fiorello cos'è che non va? È troppo... No, la voce. Beh, la voce, poi la parolaccia, il modo, non mi appartengono molto. Vabbè, ho capito, però è una caricatura, insomma. Sì, certo, vanno tutte belle le caricature, però, sono tutte però dice Fiorello... Però l'altro, secondo me, mi era più vicino alla mia voce. E adesso Gabriele Albertini, che è senatore del nuovo centrodestra. Sentiamo un po' pure Albertini. No, adesso io faccio la pensionata perché sono una signora di 70 anni, cioè io quando facevo il ministro mi ero anche interessato di molte cose, poi adesso c'è questo giovane del PD che faceva il ministro dell'ambiente, quindi spero che porti un ambiente migliore via. Vabbè, perché... non c'è partita. Mercù, applausi, eletto miglior imitatore della Cancellieri. Ma sfido io, sono io. Ma sì, Cancellieri. Chiaro che dico io. Volevo dire una cosa. Chi c'è? Pure Bossi. Complimenti anche all'imitatore in studio. Avevo chiamato la cancelliere prima. Perché? Perché Renzo doveva fare il sottosegretario alla giustizia. Ma no, non può, scusi Bossi, però adesso lei si intromette sempre. Ma Padania libera, cancelliere, abbiamo fatto battaglia per la Padania. Ma quando avete fatto con Bossi? Nessuna battaglia avete fatto con Bossi. Lei crede nel Dio Po? Non crede nel Dio Po, sì, non credo proprio, no, assolutamente. Cassola, ma perché ma, si tolga adesso Bossi, si tolga le scatole. Io voglio capire una cosa però, dopo aver letto Mercù come suo migliore imitatore, le faccio sentire una cosa che ha detto Panariello, perché io sono sicuro che lei ci è rimasta male. Molto male. C'è rimasta male. Ma non per questo. Aspetti, sentiamo prima Panariello. Sì. Panariello al Festival di Sanremo. Una cosa però Renzi l'ha imparata dal suo predecessore, fateci caso, e infatti Berlusconi com'è che ha stravinto? Perché ha candidato, avete mai visto donne belle in politica come in questo periodo? Ha candidato la Carfagna, la Prestigiacomo, la Gelmini, Renzi furbo che ha detto aspetta un attimo, e ha candidato la Madia, bella no? La Moretti, ma l'ultima la Boschi. La Boschi, ragazzi, è di una bellezza. Perché il governo Monti non ha funzionato? Perché si è presentato con lei. Carlo, sembra Cecchi Gori. Giorgio. Un pochino Cecchi Gori. La Fiorentina, la Fiorentina, la Fiorentina. Allora, è evidente che dall'esterno, se la cancelleria, uno ride, no? Cioè, dall'esterno è normale che uno possa ridere. Io ho riso come un pazzo, ma è riso non perché lei veramente assomiglia a Cecchi Gori, no, no, certo. Cioè, perché poi Cecchi Gori, cioè, voglio dire. Ma anche assomigliarsi a Cecchi Gori, la cosa grave. Ma lei ha protestato con la Rai? No. Si è arrabbiata, no, ha chiamato qualcuno. Ma arrabbio, no. Che ne so. Il problema è che è grave che ancora si pensi che uno vale, una donna vale se è giovane e bella e non vale se non è bella. Questo è il certo. Sistema che applica Renzi, cioè, secondo domando, lei, per esempio? No, no, io dico tutte le ministre donne citate da Panariello. Da Panariello avrebbero dovuto indignarsi e dire noi siamo qui per un altro motivo, non perché siamo giovani. Beh, è anche un comico però, Sì, è un comico, però è offensivo pensare che tu vieni scelto per i tuoi occhi, per i tuoi capelli. Sì, era una battuta di un comico. Lei dice alla platea di Sanremo, milioni di italiani. Sì, però voglio dire, a milioni di italiani io dico tu devi prendere una donna per quello che è, per quello che vale, per quello che sa fare. Non per come appare. No, questo siamo d'accordo e poi tutti. Perché per una donna si fa e per un uomo no? Ma l'hanno mai... Spadolini, lei pensa a Spadolini. Signor Spadolini, sì. Che è un uomo davanti a cui io mi inchino. Sì. Un grandissimo, sì. Un grandissimo, un grandissimo. E a qualcuno ha mai pensato di prenderlo in giro come, perché beh, non sì, era Forattini, Forattini faceva delle vignette, sì, era un'altra Forattini, epoca, era un'altra però, epoca. Però nessuno ha mai messo in discussione le sue capacità. Sì, è vero. No, ma questo è vero, però cioè, qui siamo è di fronte però di donne, è Panariello, cioè, non me... è che l'ha detto. Vabbè, è anche Berlusconi quando attacca la Bindi. È tanto grave secondo me. Sì, cioè, no, secondo certo, me però... le donne vanno devono indignarsi perché le donne devono pretendere il rispetto come donne. Cioè, secondo lei per esempio la Rai è assurdo che abbia mandato in onda una roba del genere? No, la Rai poi a un certo punto ha mandato in onda. Magari controlla Nico Pioni, no? C'ha l'ascolto. Beh, potevano forse controllare anche le foto, perché poi anche là ragioniamo sulle foto, perché poi... Cioè, dice le foto vanno scelte, le foto scelto, si scelgono prima e dunque la foto... c'era di uno... Di una, tenendo conto anche dell'età che c'ha, e il meglio che c'è di altre. Facciamo un ragionamento. Ma perché non mi ricordo? Misero la sua foto? Sì, misero la foto orribile. Penso addirittura, secondo me, truccata. Questa è la sensazione che ho avuto io. Però misero una foto. Beh, in quel caso, misero una foto orribile apposta, tutti, forse. Certo, misero una foto certo, per farla sembrare. Per comunque, farla va tutto bene, però. Come donna io trovo che c'è da reggere. Lei era lì davanti alla televisione? No, no, no, me l'hanno detto, tra l'altro l'ho sentito parlare, non l'ho manco visto perché poi me l'hanno raccontato. Vabbè, la foto però l'ha vista, evidentemente la foto me l'hanno vista. Detto, me l'hanno detto. Mi indigna come donna, ecco, io credo che facciamo tante storie di femminismo, di 8 marzo, di tante storie e poi non cioè, e su questo nessuno dice la nulla. La tarantola doveva battere un colpo. Ma nessuno cioè, dice nulla, ma non dico tanto, tutti quei comitati, tutto quel mondo che... Nessuno l'ha difesa, nessuno l'ha difesa. Ma non è che ce la difende me, a me non me ne porta nulla. Proprio non me ne lei porta detto, nulla. Lei ha detto una cosa carina, ma anche se somigliassi a Cecchi Gori, ma non che mi importa? Non è che ci trovo qualche somiglianza. No, ma non lo so, Cecchi ma non mi importa assolutamente nulla. Io voglio essere valutata per quello che sono, non per l'aspetto fisico. Senta, dunque Panariello un penoso. Secondo me è patetico. Patetico. Senta, lei che è stata prefetto, la farebbe la legalizzazione della prostituzione nelle città o no? Beh, è un discorso che secondo me va affrontato in una maniera un po' laica, nel senso che comunque... Cioè fa bene Marino, lei desiste. È di Roma, Marino ha sì, quella cosa non là... Non si può fare in un solo quartiere perché riduci quel quartiere in un... Però un quartiere a luce rossa lo farebbe? Ma ragionerei un attimo su delle tipi di controllo diverso del fenomeno. Cioè la punizione dei clienti, per esempio, è una follia secondo lei le punire multe, le multe ai clienti? Mandarle a casa no, questo lo trovo molto pesante. E invece un quartiere pesante a luci rosse vero e proprio? Ma a luci rosse che diventi un quartiere off limits per tutti, no. Però cercare di razionalizzare un pochettino, di secondo me è un discorso su cui bisogna ragionare molto. Vabbè, comunque lei non è favorevole né alle né quartiere luci rosse né alle, un alle quartiere multe, solo no, ma le multe ai clienti io lo però la legalizzazione veramente... sì, la legalizzazione sì, ma una cosa che venga magari controllata e seguita. Lo spinello legalizzato, lei ha mai fumato uno spinello? No, mai. No, ma lo spinello oggi ieri la Direzione Nazionale Antimafia, esponenti anche dell'ex governo Monti, del Benedetto Della Vedova, dicono che bisogna legalizzare. Lei lo legalizzerebbe? Ma guarda, cioè qui bisogna Parenzo ha fumato, fumato sì, diversi spinelli. Bisogna affrontare il problema per vedere gli sviluppi che può avere. Vabbè, perché probabilmente uno spinello due possono non il problema è la dipendenza che può creare però vabbè. Certo se ne deve parlare. Se ne deve parlare. Va bene, grazie. Prego. Grazie, a presto. Con noi però mi ero dimenticato di una cosa, ma lei che è tifosissima della Roma, lo vuole dare un consiglio all'allenatore Garcia per uscire da questa situazione? La Roma non vince più, la pareggite, pareggia sempre. Che consiglio possiamo dare? Secondo me, per quello che ne capisco io, forse ci vuole molto cuore nelle partite. Deve ritrovare proprio l'unione, la forza, lo spirito. Ha detto che non riconosce più la Roma. Vabbè, poi la Roma. Ma non la riconosce o forse la Roma, cioè lui è l'allenatore, la Roma deve riconoscere lui, deve essere da tutte e due le parti. Non è solo colpa della squadra, sarà pure colpa dell'allenatore. Cioè, bisogna che insieme ritrovino il loro feeling e insieme combattino per quest'ultimo tranche che può essere molto importante. E poi dice gli allenatori passano. Ma gli hai detto che tu sei della Lazio? Sempre a Roma. Sì, Roma. Sì, lo so che della Lazio. Lo sa, cancelliere, che ho subito Lazio. Visto come stava andando la partita della Lazio, perché ho detto, oddio, se la Lazio perde, poi che fa? Però mi ha detto male. Mi ha detto anche un'altra cosa. La faccia da Laziale. No, ma mi ha detto anche un'altra cosa. No, un attimo, ha la faccia da Laziale. Non esiste una faccia da Laziale. Però mi ha detto un'altra cosa, che dopo la Roma per lei viene la Lazio. Beh, certo, se deve essere un'altra squadra, che sia una squadra del mio territorio. Senta, un'altra cosa però mi viene in mente, ma io trovo ridicola questa cosa della Boldrini, il presidente della Camera. Io posso dire ridicola perché non ho nessun ruolo, diciamo, rispetto a lei, anche un po' patetico. Questa battaglia per lei, si farebbe mai chiamare prefetta? Guardi, prefetta, ministra? Mi sono sempre fatta chiamare prefetto, ministro, perché non ho mai avuto problemi di questo. Non gliene frega niente di queste cose, diciamo la verità. Io credo che i temi da combattere sono quelli di cui abbiamo parlato prima. Sono altri, cioè sono queste altri. Qua sono. Sì, cioè, le pare normale che il presidente della Camera ogni volta intervenga su questo argomento? Però fa parte forse questo l'aiuta a sentire più forte la forza delle donne, dalle forze delle donne. No, significa ritagliarsi un ruolo, forse. Io credo che invece le battaglie vadano fatte su certi principi. Cioè, lei che sono essere chiamata prefetta non mi porta nulla. Anzi, suona pure male. Preferisco prefetto io. Preferisce prefetto. Ministro pure, prefetto. Meglio ministro di ministra. Ma non è questo. Io voglio essere rispettata come persona e non donna, uomo, come persona. Voglio che le donne siano rispettate come persone. Però ci vorrebbe una telefonata con Panariello di chiarimento. No, signor ma Panariello, perdere, per carità, ma non mi importa nulla. Lasci perdere. Va bene, grazie, arrivederci. Grazie. Che è successo? Ah, no, ah, sì. Ma che succede? Ma non mi lascia intervenire. Io volevo presentare... Ma parlate, 20 minuti che parla. No, mi perdoni, Cruciani. Volevo chiedere una cosa al mio imitatore. Che vuole chiedere al suo imitatore? Volevo chiedere al mio gentilissimo, bravissimo, devo dire, imitatore, mi fa uguale. Cosa voleva dire quando disse: è come se lei dice a una madre di famiglia, devo andare a pranzo, se ti compri un chilo di carne ti fa comodo, ma bello mio, certo. E fa comodo, poi lei mi dice che non c'è i soldi per la carne, non si preoccupi, faremo con le uova. Che vuol dire? L'ha raccontata un po' stramba, e quello che io voglio dire è che bisogna fare fronte ai problemi con i mezzi che si hanno, cercare di aumentarli laddove è possibile, è chiaro, ma se hai poco devi comunque con quello fare. Se la ricorda fronte. L'espressione che ha usato? Non, sinceramente non me la ricordo, però ecco, il concetto è questo. io con quello che ho apparecchio la tavola. È chiaro volta... che sarebbe meglio mettere caviale, ma se c'ho una bella gricia, una cacio e pepe, allora cacio e pepe, eccezionale, eccezionale, cacio e pepe, eccezionale. Quanto sono buoni. Buoni. Dovremmo andare una sera a cena, mangiare qualcosa di buono in un tipico due locale. Due carciofi giù alla Giudia, guardi. Due carciofi alla Giudia, questa è la stagione, venga subito. Meraviglioso, complimenti ancora per la sua attività, ottimo imitatore, grazie. Arrivederci, arrivederci, grazie. Salute. Bene, dove andiamo ragazzi? Dove andiamo? Andiamo a Caserta, Caserta da Gennaro. Gennaro, vai. Ciao Giuseppe, buonasera. Dimmi, dimmi caro, dimmi. Senti, adesso ti devo pungere un poco però, eh. Dimmi, dimmi caro, dimmi. Ti devo dire che hai strumentalizzato la cosa di quel ragazzo di Cicciano, di Fisciano, dov'era? Ma chi? Ah, Fisciano, il brasiliano che si è finto, perché tu lo sapevi già dall'inizio. Che... No, io non sapevo un cazzo, non cominciamo subito, Gennaro. Gennaro, io non sapevo nulla di quella vicenda. L'ha chiamato. Allora ascoltati la trasmissione. No, ma senti, ma come puoi immaginare? Tu mi stai dando veramente. Cioè, la polizia e la magistratura hanno fatto delle indagini e tu stai dicendo che io ho costruito tutto. Ma ti pare che un terrorista va a chiamare con un telefono tracciabile? Ma io non lo so, io non credo. Io tra l'altro non credo che sia un terrorista questo qua. No, aspetta, io non sapevo niente dall'inizio che era un che era uno che. Allora ascolta di la trasmissione. Ma no, ma ascolta, lo so benissimo quello che è successo. Io so benissimo di quello che è successo. Ha chiamato uno da Salerno, dalla provincia di Salerno. Parenzo è anche testimone di questa cosa, perché non è possibile che io sapessi qualcosa prima. Ha detto delle cose. Minacce ci sono state. Come faceva uno a sapere? Ma scusami un attimo. Ha detto delle cose gravi. La polizia sta indagando, lo hanno accusato. Poi vedremo. Io spero che si risolve in un nulla di fatto. Ma secondo te un terrorista chiama con un telefono che si fa individuare? Amico mio, ma cosa vuoi che ti dica? Anch'io la penso come te, ma io non ero d'accordo con nessuno. Cioè, secondo me. Sei un povero cretino e tu lo sapevi. Io non sapevo nulla. Non sapevo niente. Non cominciamo a dire stronzate. Non sapevo nulla. Niente, chiaro? Niente. Niente. Poi ti sei pure messo a pungere a quella donna che te lo volevo dire 2-3 giorni fa, quando quella donna anziana, ma lei spara, ma una donna di 70 anni, non la vedevi che quella lì era una donna che stava arrabbiata perché cruciale? Ma tu hai mai avuto i ladri in casa quando stai dormendo con ma scusa, non ho capito, io ero d'accordo con quella nonnina, eh? Però comunque la punzecchiavi, no, ma lei spara, ma secondo te, ma uno si arrabbia, ma guarda che quando ti vengono i ladri in casa ti traumatizzano i figli, la famiglia, tu ma certo, per un periodo non vivi più, ma cioè, tu comunque incominci a delirare mentalmente quando dici le cose. È perché veramente io ho un bambino di 12 anni che Gennaro, mi sono venuto a casa. E allora che fai? Tu spareresti? No, io non sparo nulla, però ti dico che quella, lo sai che cosa faceva mio figlio? A mia insaputa si nascondeva il coltello da cucina sotto il cuscino quando andava a dormire. Come glielo spieghi a un ragazzo? Cioè, ma perché uno deve stare a casa, non deve stare tranquillo, deve dormire, in grazia di Dio, perché si fanno tanti sacrifici e queste cose? È normale che ti indigni, no? E arrivi proprio a... Sì, ma faceva ridere la nonnina col marito in macchina, le mazze da golf, capito, il fucile, però voi dovete avere più rispetto quando parlate delle persone. Dai, che stavi lì a punzecchiarla. Io faccio quello che voglio e soprattutto faccio il mio mestiere, Gennaro. Ma una persona laureata, una brava persona. Ma che c'entra, scusa, che c'entra? Io ti ammiro pure delle ottime conduzioni che fai a volte. Vabbè, Gennaro, senti, fammi parlare con Riccardo. Ma è 3 ore che parli, su, dai, forza, dimmi. Tu lo sai come sei, ma te lo dico io a volte approvo benissimo le cose che fa, però tu pure sei il classico Robin Hood verso i poveri, ma sei l'adulatore dei ricchi. Ma guarda, grande adulatore dei ricchi, guarda, grande adulatore dei ricchi. È certo che guarda, sono amico di tutti quanti che... lasciamo perdere, dai, Gennaro, non sai niente, tu dai. Posso fare un altro esempio? Ma quanto vuoi stare in onda? Quanto vuoi rimanere in onda? Poi il fatto, io sono di un paese, la provincia di Caserta, no, dove negli anni 80 ha primeggiato un po' la camorra, tutto quanto, allora... e tu magari da semplice cittadino non potevi far nulla, giustamente, perché eri... Perché invece adesso è tutto rose e fiori, che... No, aspetta, sentimi, ma adesso vedendo la faccenda di De Luca, no, il governatore della Campania, dimmi. Noi come cittadini, no, che cosa potremmo fare quando poi loro adesso si appellano alla legge Severino, no? Non si dimette, non si vuole dimettere. Noi come cittadini che cosa dovremmo fare? Niente, nulla. Ma che devi fare? Allora il sistema è quasi lo stesso, cambia la facciata, però siamo lì. Guarda, io sono d'accordo con te quando adesso lo dico con altre parole, quando dici sono ipocriti perché prima hanno approvato. Chiamalo un poco a De Luca e fagli un'intervista a modo tuo, come la sai fare tu. Ciao Riccardo Biella, Riccardo. Sì, dimmi, vai Riccardo, dimmi. Ciao, ti volevo solo dire una cosa. Allora, ho sentito stasera ce n'aveva il discorso di Piano e Piano? Il ragazzo di Fiano. Di Fiano, sì, di Casa Pound, sì, che hanno battagliato ieri alla gabbia. Sì. Quello non voleva parlare con Di Stefano perché era fascista. Proprio. Beppe, volevo dirti questo. Io ho 45 anni sì. E ti posso dire una cosa. Secondo me in Italia... se uno vuole veramente guardare negli occhi il fascismo, deve guardare la sinistra italiana, perché dire a una persona "io con te non parlo in quanto tale" è assolutamente fascista. Ma cosa c'entra? Ma uno potrà scegliersi gli interlocutori, no? Sì, ma cioè, se uno è incita a Mussolini, crede, mette in discussione quel che è stato il ventennio, non ha nessun accenno critico, ma uno deve, ma avrò il diritto, Fiano più di me ovviamente, ma uno può fare quello che vuole nella vita, avrò parlare il diritto con chiunque di mandarlo a quel paese, certo, e decidere di non parlare. Tu puoi parlare, no? Tu puoi parlare con chiunque. Io ti dico semplicemente che io dico cose. Ma vai, uno che si proclama fascista del 2%. Allora non vai in una trasmissione dove invita i fascisti. No, invece ci vado, porto la bandiera dei partigiani, lo mando a quel paese, ma rimango lì, perché chi è in difetto è lui che si proclama fascista, mica io. Il punto fondamentale... Fatto benissimo, Fiano, ad andare lì e mettere il puntello. Dici, io da qua non vado via, io rimango qui, ma con lei non parlo. Bellissimo, sì, mamma mia, che grande apertura democratica, che grande flessibilità, che grande... Allora scusami, fammela dire tutta. Casa Pound è un movimento che non è stato sciolto dalla polizia, che ha tutto il diritto di esistere, finché la polizia non lo scioglie per apologia di fascismo. Uno ha diritto di non parlargli se uno incita Mussolini. E allora non ci vai. Io ci vado, combatto. E allora attacchi il conduttore. Attacchi il conduttore che invita i fascisti. Ha fatto una bella scelta, è andato là e ha sfregio, non gli parla. Ma non ho capito, ma non ci sono tanti comunisti e il comunismo ha fatto un sacco di morti, una marea di morti che vanno nelle trasmissioni colpe, e si professano stalinisti, comunisti. Non è la stessa cosa. Nella Costituzione italiana ci sono due firme, di due comunisti. Chi se ne frega, roba da cimitero. Ha firmato pubblicità. La Costituzione un comunista da pubblicità, noi, chi se ne frega. Sempre un regime criminale era. Sempre un'ideologia criminale era. Come il fascismo italiani, come il fascismo che le odio nel cantare. Ci massacra. Radio Padania, vai con Radio Padania. Servi di Roma fuori, senza dubbi né ripensamenti. Padania bella e libera, guarda avanti. Servi di Roma fuori. Pare che adesso le discoteche bolognesi siano diventate salviniane. Bologna, apartheid in discoteca, porte sbarrate ai neri, anzi, diciamola tutta, ai negri. Così facciamo contenti Parenzo e Cruciani. Avarin. Sì, a parte si dice apartheid. Avarin. Dai, su. Tutto Flavio Tosi. E Nabucco dalla Liga. Ma non mi pare che perché se ne parli. Mangia il couscous. Ma non se ne parla molto. Non se ne parla molto a Radio Padania della vicenda Tosi. No, non si parla molto. Libertà. Caccia Flavio Tosi. Mangiatore sempre di kebab. Traditore della polenta d'aragna. Guarda avanti. Servi di Roma fuori. Fermo. Lasciateli ballare in ciabatte. Perché non farli ballare questi ciabattanti? Balla in ciabatte, ma senza pagare. Perché io ci scommetto le palle che questi non volevano pagare per entrare in discoteca. Sentire quanto è forte la tua voce. guida il popolo. Effettivamente sta cosa della discoteca di Bologna sembra ridicola, eh. Non dico che c'ha ragione Varin, ma quasi. Cioè, pare che alcuni uomini di colore negri abbiano fatto casino in discoteca e diciamo c'era un'indicazione più o meno a Bologna per non far entrare extracomunitari, gente che poteva fare casino. Ma un gruppo di persone, non tutti neri, non tutti neri. Insomma, ragazzi, se qualcuno crea problemi, italiani o neri che siano. Hai detto bene, se qualcuno crea problemi, ma sì, indipendentemente ma non dal colore della pelle, sì, ma è stata bene raccontata, ma una cazzata. Ma perché le risse in discoteca oggi ci sono? Ma cioè, figuriamoci, da non le fanno solo i neri, non le fanno solo i neri. Appunto. Però senti, senti un attimo ancora Varin che sbrocca. Varin. Poi, guardavano. Ma l'autoerotismo all'asilo non lo insegniamo. Non osate neanche fare una cosa del genere. Vi spacco la faccia a tutti quanti. Se vengo a sapere che nel mio asilo fanno una roba del genere, signori, entro dentro e li faccio fuori tutti, è chiaro? Ben pensanti di merda. Scusa Varin, il punto fondamentale è questo: se un insegnante prova a dire ai bambini come si fa autoerotismo, questo insegnante va preso e cacciato dalla scuola. Questo lo diciamo anche noi, senza bisogno che lo dica tu in quel modo. Cioè, è evidente che se uno insegna ai ragazzini come si fa a farsi le pippe, deve essere preso a calci nel sedere subito. Ma non esistono esempi di questo tipo. Ci sarà ogni tanto un pazzo che dice ai bambini come farsi le seghe. Questo va preso e cacciato dall'insegnamento. Ma questo mi pare normale, no? Cioè, andiamo, Giorgio, provincia di Belluno, vai. Ciao a tutti. Dimmi. Io volevo rispondere alla leghista che di prima, che diceva. Sì, la fidanzata di Tosi, allora? La fidanzata di Tosi, Bisinella, esatto, che conosco anche bene. Allora, Tosi praticamente sta raccogliendo quello che ha seminato negli anni scorsi. Sì. Perché ha preso le segreterie provinciali, parliamo di dirigenza, a colpi di espulsione e a colpi di commissariamenti. È logico che la base, i militanti, gli elettori del Veneto votano solo Zaia. Lui pensava di fare una manovra di quel genere lì e invece. Cioè, tu stai dicendo che lui ha cacciato della gente dalla Lega e adesso raccoglie i frutti di quello che ha fatto prima? Esattamente. Va bene, grazie Giorgio, ho capito tutto. Marco da Prato, vai Marco. Marco? Marco? Pronto, ci senti? Mi senti? Dimmi, dai, forza. Volevo dire una cosa. Ogni anno, il Sole 24 Ore, volevo parlare dei Rom. Che qui stiamo a parlare sempre cosa fanno, cosa non fanno, allora? Percentuale, tutto. Ogni anno, il Sole 24 Ore, sì, ci baca i coglioni, scusa il termine, con tutte le statistiche riguardo il clima di ogni città, come sì, si sta bene. La qualità della vita in alcune città, sì, dai, allora? Statistiche di ogni tipo. Voi che siete due giornaliste, non potete dare fuori qualche numero e almeno si ragione sui numeri? Perché se no... Ma su che me, cosa, scusa? Sulla cosa? Percentuale dei Rom. Ma sì, ma io so tutto, 170.000, quanti vivono nei campi, quanti non vivono nei campi. Allora, eccetera. Il buon Parenzo, che secondo me difende l'indifendibile perché è il suo ruolo fondamentalmente, perché è indifendibile la situazione dei Rom. Ma allora, non difendo nessun Rom, io sono contro i campi nomadi, ma ho detto mille volte che quella roba lì. Ma certo, ho detto che va trovata una soluzione, cioè come per le case, le cose, vanno trovate una sistemazione. No, la devono trovare loro la sistemazione. Ti pare che possa essere d'accordo alla gestione, al fatto che la gente viva in una tenda, in un camper? Il problema non è la comunità, sono i singoli. I singoli, non esiste nessuna comunità che deve essere protetta. La politica ha creato i campi Rom, non i Rom. Capito? Sì, Davide, allora i Rom sono vittime secondo te? Sono vittime della politica. Cioè, a Roma, due punti, i Rom sono vittime. No, ma non solo. Pazzesca. A Roma hanno rubato pazzesca, più politici pazzesca dei Rom. Ma quello sempre. I politici hanno creato la quantità di soldi che hanno rubato i politici. Ma scusa, guarda l'inchiesta che c'è stata di Mafia Capitale, scusa. Ma la quantità scherzando di soldi che hanno rubato i politici è sicuramente superiore alle nefandezze dei Rom. Su questo non c'è dubbio. Ma questo non c'entra niente. Ma sono due discorsi diversi. L'emergenza Rom è servita alla politica per costruirci su consenso, va bene, su questo d'accordo, non c'è dubbio. Marco, che cosa vuoi dire? Scusami Marco. Di cosa stiamo parlando? Ma questo non mi porta a negare il fatto che i Rom sono in gran parte ladri. Infatti, ecco, è quello che sta dicendo. Ma se i numeri dicono questo, cosa difende Parenzo? Cosa difende? Ma certo, è così. Allora, si può guardare questi numeri, glieli metti davanti al muso e se li legga questi numeri. Va bene Marco, grazie. Giuseppe Reggio Emilia, vai Giuseppe. o comunque che vivono di espedienti, non tutti ladri, ma vivono di espedienti, vivono una vita che è quella che è, cioè la maggior parte dei rom che sono nei campi nomadi, che sono nei campi ovunque. Nomadi nelle grandi città europee esiste il disagio, che si chiami rom, che si chiami bubù, esiste il disagio, ma che c'entra il disagio, la marginalità, ma non siamo qui a fare sociologia, e allora fai quello che ti pare, ma esiste la marginalità, ti piace questa parola, la marginalità, va bene, ho capito, lui dice vabbè traffico via Walter da chissà dove, quell'altro, ma non c'è nessun traffico. Parenzo, è scoppiata una polemica incredibile perché gli animalisti, i nostri amici animalisti, vanno all'attacco dei circhi. No. Fin qua niente di strano. Gli animalisti sono avvelenati coi circhi, cioè vorrebbero che i circhi non esistessero. Ma siamo matti. Che perché tu ami i circhi? Ma stai scherzando? Cioè, per te i circhi sono fondamentali? I circhi sono una magnifica espressione dell'arte, stupendo. I bambini devono andare al circo a vedere gli animali, clown, i pagliacci, buon anno. Ma non si possono abolire. Buon anno al circo, che sei impazzito. Certo. Ah, tu certo. Dici vorresti buon anno al circo. No, è già al circo, di che parli? L'ho anche twittato oggi, ho il tendone del circo pronto. Vabbè, in realtà gli animalisti perché si incazzano? Gli animalisti si incazzano perché dicono leggono i circhi condannati per violenza sugli animali. Vabbè. Ma lo Stato continua a finanziare i circhi stessi, che non si potrebbe fare per legge. Ma io ti ho invitato il capo dei circhi, cioè il capo assoluto dei circhi italiani. Brava persona. Assoluto, si chiama Buccioni. Antonio Buccioni. Buonasera. Senta, lei lo porterebbe l'onorevole Buonanno in un circo? Beh, certo. Assolutamente sì. Cioè, lo porterebbe a fare cosa, scusi? Il clown. Gli do ampia scelta. Si possono fare tante cose in un circo. Cosa potrebbe fare? Guardi, dal clown all'acrobata a terra, all'acrobata aereo, all'ammaestratore. Cioè, è portato, secondo lei è portato? Sì. È naturalmente votato a star. Non mi pare leghista il signor Antonio Buccioni. No, ma che c'entra? Ma capisce il talento vero delle persone, non la politica, ma vabbè, il circo. In realtà Antonio Buccioni è il capo dell'ente circhi. Allora io voglio chiedere subito una cosa a Buccioni. Ma è vero, cerchiamo di chiarire subito una cosa. La LAB, cioè la Lega Antiviolenza, dice che circhi condannati in via definitiva per maltrattamenti agli animali continuano a essere pagati dallo Stato e non si potrebbe. Vero o no? A prendere contributi. Assolutamente falso. Cioè sono dei falsari? Direi di sì. Fino a una sentenza definitiva non... No, loro dicono che ci sono sentenze definitive che riguardano circhi che continuano a prendere soldi dallo Stato. È vero o no? Assolutamente no. Assolutamente no. Dunque li querelerete? Che farete? Li denuncerete? Domani procederemo a querelare... sotto questo aspetto e soprattutto sotto l'aspetto della disinformazione che creano in materia di finanziamenti. Di finanziamenti. Vabbè, sento una cosa, ma le pare normale che lo Stato ancora dia dei soldi ai circhi? Guardi, io credo che lo Stato abbia come compito anche il sostegno della cultura. E faccio riferimento a paesi a noi vicini come la Francia, la Spagna, la Svizzera, la Germania, dove questo accade pacificamente. Diciamo che comunque l'investimento complessivo dello Stato nei confronti delle attività dello spettacolo non è significativo. Nei confronti del mondo del circo è al di sotto della soglia della decenza. Cioè, secondo lei lo Stato, scusi Buccioni, secondo lei lo Stato dovrebbe dare più soldi ai circhi? Assolutamente sì, in Francia da 10 volte quello che dà in Italia. Dunque loro mentono, la Lega Antivisazione mente sul fatto che voi prendete 5 milioni all'anno, 6 milioni all'anno per un totale di 30 milioni negli ultimi 5 anni? Le imprese circensi percepiscono qualcosa che si aggira intorno ai 2 milioni di euro all'anno. 2 milioni all'anno. Quindi quantomeno hanno triplicato questo dato. Basta fare i conti e verrà fuori 10 milioni e non 30 milioni in 5 anni. Che a mio parere, ripeto, è una soglia al di sotto del limite della carità e della decenza. Addirittura. Dunque, secondo lei lo Stato tratta meglio, che ne so, gli extracomunitari o i rom piuttosto che i circhi? Beh, solamente quello che ha speso il Comune di Roma, peraltro giustamente sul problema dei campi rom, è assolutamente una cifra superiore a quella che ha speso complessivamente lo Stato e i comuni d'Italia per le aree, per i circhi e per le giostre in 50 anni. Cioè, giostre, circhi, lasciamo perdere le giostre, i circhi sono trattati peggio di quanto lo Stato fa con gli extracomunitari e i rom, giusto? Assolutamente. No, questo è un po' eccessivo, amico mio, insomma, voglio dire, conto è una categoria come voi che però deve stare sul mercato, ma deve avere dei finanziamenti, ma essere secondo paragonati me no, secondo me no, io sono favorevole come circhi. Il teatro, anche il teatro ha degli aiuti da parte dello Stato, pure quello, perché comunque anche in tutto quello. Il mondo la cultura è sostenuta, anche in Francia ha ragione su questo. Dopodiché il paragone con i rom, caro amico circense, beh, qui mi pare un po' un numero da circo che lei ha fatto con questo paragone, diciamo. No, però, assolutamente, beh, un po' un numero da circo l'ha fatto. Dopodiché io continuerò a difendervi perché siete... Senta Buccioni, ma lei come li considera? Darete lavoro a buon anno, quindi per me siete... anzi, siete come dire il futuro di buon... dovrebbe essere il presente del signor buon anno, ma sarete sicuramente il suo futuro, quindi grazie. Scusi, gli animalisti come li considera? Degli estremisti, dei pazzi, dei fissati? Ma ci sta animalismo e animalismo, sicuramente sono dei seminatori d'odio, quello che soprattutto non si rendono conto di una circostanza elementare. Cioè? Il circo vive perché ha un pubblico affezionato che lo frequenta, perché altrimenti però senza soldi pubblici, senza soldi pubblici non andate avanti. Senza soldi pubblici andremo avanti, perché i soldi pubblici costituiscono qualcosa che, ripeto, rasenta la misericordia. Va bene Buccioni, grazie, a presto, grazie. Poi, grazie. Ciao, saluti. Ciao. Amico Buccioni, che è capo dei circhi, sostiene che sono trattati peggio degli extracomunitari e dei rom, cioè danno più soldi ai rom, agli extracomunitari, che ai circhi italiani. A mio parere non dovrebbero darli a nessuno i soldi pubblici, né ai rom per i campi rom, né agli extracomunitari per l'accoglienza, né ai circhi italiani, né allo spettacolo, perché altrimenti non c'è fine, non c'è... Perché non darli pure a me? Perché non darli pure a, che ne so, ai Cruciani, ai Parenzo? Non c'è fine a una cosa di questo tipo. Basta con i soldi a pioggia, basta, spendiamo troppo. Fammi parlare con Stefano da Genova, dai Stefano. Oh, buonasera. Dimmi. Allora, sulla questione dei fascisti e dei comunisti, ecco, io vorrei schierarmi con Parenzo, che mi aiuti magari anche a farle capire una cosa. Sì, perché... però parlami dopo la pubblicità, aspetta, resta lì. Sei con Parenzo nel senso che secondo te uno può essere tranquillamente antifascista, però anticomunista no. Cioè nel senso che esiste l'apologia di fascismo, se non ho capito male, e invece non esiste quella di comunismo, come in Germania peraltro. Monellacci. Allora, eravamo con Stefano da Genova, vai Stefano, dunque, cosa volevi dire? Questo, allora, no, dicevo che se non mi sbaglio in Italia non si può formare un partito che si richiami al fascismo, anche come termine. Sì, vabbè. Mentre invece comunismo, se vabbè, questa cosa pazienza, dà fastidio, no? Ecco. A me non me ne frega niente di quello che si può fare o di quello che non si può fare. Appunto, sì, però dà fastidio. Su queste perché... cose qui, capisco che c'è la storia, ma i comunisti, come poi è stato rivelato successivamente, anche durante, poi mi dà pure fastidio tornare su queste vicende, ne hanno combinate di tutti i colori, cioè sì, se uno fa Italia. Il computo dei morti, ma che c'entrano in Italia? Cioè, in perché Italia, devi guardare solo all'Italia? Ma perché deve guardare solo, a parte che anche in Italia hanno combinato di tutti i colori? I comunisti ma hanno firmato la Costituzione. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Io dico chi se ne frega? Da ministro di ma giustizia è roba vecchia morta. È roba vecchia morta. Terracini era presidente dell'Assemblea Costituente. Pronto? Comunista. Beh, Stefano, allora? È lei che sta richiamando il passato, però. Quindi no, sei tu che lo richiami dicendo che c'è una differenza. Certo che c'è una differenza, lo capisco, ma io me ne frego di queste differenze. Perché andando a guardare nel complesso i morti fatti dall'una e dall'altra, vai a vedere che sono più i morti che hanno fatto i comunisti che quelli. Italiani. Ma chi se ne frega? Perché lei guarda solo l'Italia? Uno che la storia del partito comunista se uno italiano. Riguarda il comunismo o il fascismo, deve guardare a quello che hanno fatto nel mondo, e hanno fatto un sacco di morti tutti e due. Probabilmente hanno fatto più morti il comunismo perché è durato di più. Ma non me ne frega niente, però, più o meno. Io sono anticomunista come sono antifascista. Se qualcuno si dichiara fascista o comunista, per me non va messo al bando, ma pari sono. Questo volevo dire, chiaro? Lei è come gli ex fumatori, cioè l'ex fumatore è il peggiore nemico dei fumatori, proprio. ovviamente per ma no, che c'è, comunisti hanno figuriamoci, non sono stato, non sono affatto che... ex comunista, guardi, si sbaglia. No, l'ha detto lei adesso. No, ma per niente proprio, guardi, per niente proprio. Mi sembrava di aver capito. Vabbè, quello avesse tipi detto. Da comunque... zanzara, tipi da zanzara. Tipi da zanzara. Maria Grazia da Imperia, vai. Maria Grazia. Nonnina, no. Dimmi. Allora, hai fatto parlare 15 minuti la nonnina che spara cazzate. Adesso mi fai parlare senza interrompermi, Cruciani. Senti, devi mia. Stare tranquilla, però, Maria Grazia, molto tranquilla. Tranquilla, molto, allora, molto tranquilla. Calmi, siamo calmi. Siamo calmi. Stai un po' fammi parlare. Stai calma, dimmi. Stai esagerando. Dimmi. È bene che qualcuno te lo dica nel coro di quanti tra gli ascoltatori ti leccano il culo. Non l'ho capito. Ma nessuno perché. Mi lecca il culo. Al ma massimo mi leccano un'altra cosa. I piedi. Ti devi dare una regolata. Ti devi comportare da uomo, non da maschio. Ma dimmi. Vedi che sei un provocatore schifoso, Cruciani, veramente. Ti ho appena detto comportati da uomo, non da maschio. Cosa fai? Tiri fuori l'intercettazione di quel coglione di Berlusconi. Io tra l'altro chiedo scusa a quanti ascoltano, perché non è mio solito usare un linguaggio così volgare. Ma con gli elementi come te, Cruciani, se non parli così non ti entra in quella testa di cazzo che c'hai. Allora tu devi imparare il rispetto. Tanto io non ho dato testa di cazzo a Davide. No, come no? Dato. No, vabbè, a Davide no. A Davide vabbè, no. A me che... sì. Cioè, se tu sei testa di cazzo, io le distinzioni le faccio. Anzi, a Davide una carezza affettuosa. Una carezza affettuosa. Se non fosse sposato gli farei la corte. Donne, si parli di donne solo in termini porno star, puttane, travestiti, Valentina Natti, queste sono le donne che chiami tu. Non ti piace la Natti? Tanto, è una vita. Ma chi devo chiamare? Chi devo chiamare? I premi Nobel. Chi devo chiamare? I premi Nobel in questa trasmissione. No, chi devo chiamare? Coglione svenduto. I ricercatori, le ricercatrici donne, chi devo chiamare? Tu vuoi far passare il messaggio che è normale che una donna che venda il suo corpo. Sì, normalissimo, assolutamente. Sarà normale per te, non è normale. Anche un uomo che vende il suo corpo. Senti, non è normale che una donna si faccia pagare. C'è anche questo, un mestiere. Non è normale che una donna si faccia pagare. È un mestiere come un altro. È un mestiere. È una mortificazione del corpo. Ma tu non lo fai. Ma se non lo vuoi fare, non lo fare. Tutti i carabinieri, pompieri, polizia, ambulanza che c'era oggi fuori dalla vostra... com'è che non hai parlato di questa questione qui? Non ti è venuto il dubbio che forse tutte le minchiate che tu spari forse urtano qualcuno e qualcuno ogni tanto si incazza? Perché non ti iscrivi al fronte di emancipazione del maschio dal cazzo? Come, scusa? Com'è? Fronte di emancipazione del maschio dal cazzo. E che vuol dire? Livelli superiori cerebrali. Te. Davide è un uomo. Tu sei uno schifosissimo maschio. Tipi da zanzara. Va bene, andiamo a Cristiano da Milano. Vai Cristiano, dimmi. Sì, ciao Cruciani, ciao Parenzo. Dimmi. Senti, sentivo prima dicevi che i circhi prendono i soldi dallo Stato, ma credo che anche tu prendi i soldi dallo Stato. Meno ancora, ridaglie con sta cosa. Radio 24. Non prendiamo nessun soldo dallo Stato, nessun soldo, nessun privilegio. Ma in Italia prendono i soldi. Amico mio, se le imprese editoriali prendono dei soldi che a mio parere andrebbero tolti, dunque ti dico il mio parere personale anche contro magari la politica aziendale, io sono contro qualsiasi finanziamento all'editoria, qualsiasi finanziamento. Dopodiché se il Sole 24 Ore insieme ad altre aziende editoriali prende dei soldi, delle facilitazioni per quello che riguarda gli abbonamenti o altre cose ancora, benissimo, non è la stessa cosa del finanziamento pubblico, sono due cose diverse, però secondo me andrebbero tolti anche quelli, te lo dico chiaramente, per cui di che stiamo parlando, però è chiaro che noi non sopravviviamo grazie ai soldi pubblici, questo è evidente. Ci mancherà. No. Mentre ci sono attività che senza i soldi pubblici non sopravviverebbero. Questo è il punto, questa è la differenza, chiaro? Perfetto. Perfetto. Dunque, il corno, allora perché ha chiamato, scusi? No, ma nel senso che ha chiamato dire che anche noi pigliamo soldi pubblici, d'accordo? Anche sì, è vero, indirettamente qualche soldo pubblico lo prendiamo, certo, ma come certo, tutte le imprese editoriali. Tutte l'editoria si chiamano. Dopodiché per me andrebbero cancellati, andrebbero cancellati domani mattina. Perfetto, apprezzo la coerenza e la schiena dritta. Grazie, Giuseppe da Milano. Sì, ciao. Dimmi. Siamo per il discorso di prima, il discorso comunisti, fascisti. E io sono veramente, trovo sbagliata la tua posizione. Noi la nostra storia deve fare i conti con il fascismo, fa parte della nostra storia. I russi, i cinesi, i coreani, i cubani faranno i conti con il comunismo, sì, con tutti i morti che hanno fatto. Noi dobbiamo rendere conto, sì, della nostra storia. Ma benissimo, io rispetto quello che tu... Il fascismo da noi ha fatto tutti i danni che ha fatto. A questo punto noi dovremmo essere così, come te a volte lo sei, coerenti nel dire noi chiediamo scusa per quello che abbiamo fatto, dopo potremmo anche contestare. Guarda, o criticare Giuseppe, gli altri, il punto, ma prima dobbiamo essere noi, sì, a metterci. Sono d'accordo, posso anche essere d'accordo con te. Allora, la cosa fondamentale è un'altra. Io sono per la libertà di espressione, sempre sono sempre per la libertà di espressione, come in America ammettono l'esistenza del Ku Klux Klan, nonostante la battaglia contro l'apartheid, battaglia contro, ma a te non te ne frega dall'America, a me invece interessa. E me, come cose va bene, invece per me la libertà di espressione deve essere massima, un fascista, fascista. Per te invece no, per te i fascisti vanno messi a tacere, e che vuoi fare, sei fatto così, a tacere, io vanno messi a tacere, vanno messi a tacere, paese, sì, vabbè, Michele da Lodi, ma certo, hai tutto il diritto di farlo, a parte che sono fuori dalla Costituzione, perché non arrestano il capo di Casa Pound, perché non lo arrestano, perché non lo arrestano, perché no, domandatelo perché. A parte che lui è bravino, dice di essere fascista, dice di essere mussoliniano, allora devi avere il coraggio di dire adesso che va arrestato oggi, come figura dribbla, fa il furbo e dribbla la situazione. Vabbè, Michele da Lodi, dai, su, è una persona mamma mia, fascisti, mi viene da pensare che i fascisti sono altri, guarda, Michele da Lodi, vai, i fascisti sono altri, dimmi. Io più ti ascolto e più mi convinco di essere un tuo figlio nascosto, perché... Beh, adesso figlio, amico mio, quanti anni hai, Michele? Essere, 29. 29? No, potrebbe difficile. Essere. 29 è difficile, 48 a 19 potrebbe anni. Essere. A 19. Vabbè, comunque sia... Francamente a 19 anni no, potrebbe però essere. Potrebbe essere, anagraficamente, anagraficamente no, potrebbe essere. Ti volevo semplicemente dire che io sono d'accordo con te sulla cosa dei finanziamenti pubblici. No, ma io adesso domani voglio che la mia fantastica redazione mi faccia il computo di quanti soldi il Sole 24 Ore prende dallo Stato, e lo dico apertamente, questi soldi vanno cancellati, secondo me, ovviamente non solo quelli i nostri, anche quelli di tutta l'editoria, perché sennò di che stiamo a parlare, questi soldi secondo me andrebbero cancellati. Un'impresa deve vivere sul mercato, punto e basta, deve vivere su questo cazzo di mercato, come i teatri, come i cinema, come i teatri, come i circhi. Vabbè, questo in astratto, via i soldi pubblici, se uno sopravvive per il mercato bene, altrimenti vai a fare in culo, questo è chiaro. Non è obbligatorio fare i giornali, non è obbligatorio fare cinema, non è obbligatorio aprire un teatro, non è obbligatorio aprire un circo. Se il mercato ti sostiene, se gli sponsor ti sostengono, bene, altrimenti vaffanculo, chiaro? Michele, che dici? Esatto, io la penso esattamente così. Io lavoro nello spettacolo e allora vorrei prendere anch'io i soldi pubblici. Ma perché sennò non c'è più fine, poi arrivano quelli che fanno i giocatori di baseball e dicono perché il baseball non deve essere finanziato dallo Stato? Mettiamo i giocatori di baseball finanziati dallo Stato, perché i giovani amano il baseball. Perché non facciamo i giocatori di baseball finanziati dallo Stato? Dai, su ragazzi, non c'è fine a questa cosa. Invece bisogna cancellare tutto e ricominciare da capo. Dimmi. Posso dire l'ultima cosa, poi vi lascio la linea? Vai. Vorrei dire a Parenzo di mettere su un circo Parenzo, e se non prende i soldi pubblici voglio vedere quanto sopravvive. Beh, il mio sta in secondo piedi. Me è mezz'ora. No, attenzione. Parenzo si può dire tutto, ma sopravvive senza soldi pubblici. Cioè prende i soldi da Radio 24, i soldi da Mediaset, prende i soldi da altri, il cazzo che vuole, non lo so, però non è sovvenzionato da nessuno, non sopravvive grazie al parassitismo della Rai, eccetera. È a partita IVA, questo gli va dato atto, cioè nel senso che io posso essere in disaccordo con lui alcune cose, però su questo è uno che si fa il culo magari più di lei, eh. Io non so che cazzo fai tu a 29 anni. No, era per collegarmi al discorso del circo, no? Perché i circhi secondo me sopravvivono molto, che se ne dica, perché hanno il finanziamento pubblico. Ma non lo so, quello dice di no, il capo dei circhi diceva di no. È un pensiero mio che non ne so niente e mi ne rendo conto. Se non ne sai niente è male, però sto dicendo che secondo il capo dei circhi non sopravvivono grazie a quella roba là. A mio parere, certo, senza quei soldi sarebbero in grave difficoltà. Ma senza io soldi. Non lo so, vedendo con tutti i camion che girano e con la poca gente che ci va. Vabbè, maestro, il problema non saranno i circhi italiani, certamente è una goccia nel mare dei finanziamenti pubblici. Vabbè, sto dicendo semplicemente che è una questione di principio, una questione di principio. Ma voi ve lo immaginate i soldi che sono stati buttati nello spettacolo? E sempre dati ai soliti noti, sempre dati a gente che magari. Ma dipende, dipende. Dai, su, dai. Armando da Monza, dai. Grazie Armando. All'aiuto dello Stato sono state finanziate delle opere anche molto belle. Poi, Armando da Monza, guarda. Successi, la maggior parte sono dei flop clamorosi. Armando Monza. Sì, buonasera. Dimmi, caro. Allora, io volevo per far sapere a Parenzo che i Rom, anche se gli dai una casa, anche se gli dai uno stipendio, loro nel DNA. Loro vanno lo stesso a rubare. Siamo arrivati al perché DNA, ce l'hanno nel DNA. Il genetista. E quindi io ritengo Parenzo, io lo ritengo Rom. Colpevole perché sta difendendo i Rom. Sì. Lui praticamente fa aumentare la criminalità dei Rom. Fa aumentare, tu. Sì. Esatto. Dai, su, sì. Armando, tu, sì. Dai. Lui diventa colpevole. Ma secondo te i Rom non ho capito. Secondo te il i Rom. Il DNA, dice il genetista, sì. Professore. Come no? Lui come difende, no? Li difende in una maniera. Lui li sta difendendo DNA, in una maniera. Dunque, è complice dei crimini dei Rom. È complice, lui diventa complice. Abbiamo trovato. Arrestatelo! Arrestate, arrestato per lui. E quindi io le consiglierei di non parlare più dei Rom. Ecco. Di fare il suo lavoro da giornalista senza difendere questa razza che razza, nel DNA loro DNA. Senza rubare loro non starebbero, non stanno. Non vivono senza rubare. Armando. La sua vita è rubando. Io di Armando conosco solo la canzone di Enzo Iannacci. Va bene, si chiama L'Armando, solo quella conosco. Segreteria telefonica sui Rom, sui Rom. Cruciani, e sei peggio dei zingari, tu vaffanculo. I leghisti sono rozzi, volgari e razzisti, ma con i Rom hanno ragione. I leghisti sono volgarissimi, direi più di Emma Marrone. Ma qualcuno lì mi può dire che valore aggiunto porta una comunità Rom? Sì, sono a favore della chiusura dei campi di quei delinquenti di Rom e li mettiamo tutti a casa di Parenzo e di Formigli. Perché non vanno a rubare a casa loro i Rom? Perché gli tagliano la testa. È vero, caro Bonanno, hai ragione, completamente ragione. Gli zingari sono tutti ladroni e ci tengono tutti quanti nel terrore. Sono d'accordo con Bonanno, i Rom non servono a niente, a niente. È vero, gli zingari sono tutti criminali, delinquenti e ladri. Buonanno ha perfettamente ragione, io allargherei il campo, oltre agli zingari, i Rom, tutti i rumeni. Cruciani, sei tu la feccia d'Italia e falla sentire questa, Maria De Filippi è un tumore più devastante dei Rom. Parenzo, tieni la bocca chiusa, hai capito? Che a Padova i Rom hanno fatto un cesso di una città bella. Vergognati! Potete scrivere, potete comunicare le vostre gentili parole allo 0246, aspetta, 0246, beh c'era di peggio, 0246 52 40 10, vi ripeto il numero, 0246 52 40 10, insultate Parenzo, insultate Cruciani, insultate chi volete. A domani 18:30, ciao. Andatevene a fanculo e finisce la questione, insomma. Voi ci dovete far bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7:30. Lo so, alle 8, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. E comportatevi bene. Radio 24. La passione si sente. Sons of Liberty dal 3 marzo ogni martedì alle 21 su History, canale 407 di Sky. Vi ha presentato La Zanzara.